Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con il critico cinematografico Enrico Magrelli per presentare il film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels al cinema da giovedì 5 maggio 2022 con BIM Distribuzione. Ben trovato Enrico. Ben trovato a te e ben trovato a tutte le persone che avranno voglia di ascoltarci. Raccontiamolo brevemente. È un film notevolissimo, questo lo dico subito, non fa parte di quello che il film racconta, ma è una considerazione preliminare che mi sembra molto importante. Analizza, racconta, porta sullo schermo alcuni momenti della vita di questa straordinaria cantante, da una parte, e ruotando spesso intorno a una canzone molto importante che faceva parte del suo repertorio, la canzone Strange Fruit, che è una canzone contro il linciaggio. Bisogna dire che a tutt'oggi negli Stati Uniti non c'è una legge contro il linciaggio, il tutto naturalmente parte verso la fine degli anni 30, quando poi questa legge fu presentata, ma poi è stata lasciata dormiente in qualche cassetto. Il talento straordinario della cantante, che viene poi interpretata o incarnata, mi viene voglia di dire, con grande convinzione da questa attrice cantante vera, che poi è Andra Day, e quindi è lei che canta queste canzoni meravigliose, sfrazianti, di Billie Holiday. E si vede come a un certo punto Billie Holiday, per quello che canta, e quindi il paese della democrazia, che in realtà poi è la democrazia relativa, no? Perché poi quando uno esprime delle perplessità o dei dubbi o prende una posizione giustamente critica rispetto a uno stato di fatto, e si mette in moto proprio una vera e propria persecuzione. Molto spesso gli Stati Uniti, attraverso l'FBI, non è il primo film che vediamo da questo punto di vista, curano in modo particolare e in modo non trasparente la vita di alcuni artisti. E poi, come nel caso di Billie Holiday, si è afroamericani, la cosa si accentua, e la persecuzione, perché io la chiamerei in questo modo, di finire in prigione di Billie Holiday per motivi di droga, è semplicemente non perché lei non facesse uso di droga, questo è abbastanza evidente, del perché abbia cominciato, del perché la comunità afroamericana più di altre comunità poi fosse sempre al centro della cronaca nera per problemi relativi alla droga, quello, come sappiamo, esistono studi, esistono libri, però quello è un aspetto sul quale secondo me più di tanto giustamente il film non si sofferma, e sofferma invece sulle infiltrazioni che l'FBI e sulle spie vere e proprie, no? Che mette accanto a Billie Holiday, rovinandole la vita, rovinandole la carriera, e questa meravigliosa cantante che ci ha lasciato aveva poco più di 40 anni. C'è anche, come dicevi tu, una cantante interprete che aderisce perfettamente alla voce e al personaggio di Billie Holiday. Sì, Andra Day, poi se uno ha la possibilità di vederla non truccata come Billie Holiday, che soprattutto non segue neanche le movenze, questa grande cantante è tutt'altro, e questo dimostra e conferma la sua capacità di mimetismo, che però non è un museo di fiere, non è un rotondo di maschere, e quindi è una performance d'attrice notevolissima e anche una voce molto interessante. È chiaro che non è la voce di Billie Holiday, però è assolutamente credibile quando interpreta le canzoni celebre di questa grande protagonista della scena musicale statunitense. Lee Daniels, per cosa lo ricordiamo? È un regista molto, molto interessante. Anche lui è un afroamericano, ma questo non vuol dire niente, lo diamo come dettaglio vero e proprio. Io devo dire che non ho mai visto il suo primo film, l'ho cercato ma non sono riuscito a vederlo, quindi l'ho scoperto con un film molto interessante che era Precious, no? Che anche lì faceva un ritratto di una ragazza e lo faceva con una grande attenzione, con una grande sensibilità rispetto a quello che raccontava, quindi era a livello di quello che metteva in scena, no? Non si metteva né lontano né in una posizione laterale né senza guardare dall'alto, e poi è stato ed è un discreto produttore. Tra le cose che ha fatto, a parte il cinema, c'è una serie TV che si chiama Empire, e quindi è una figura da tenere d'occhio. Forse non possiamo iscriverlo, e questo è un bene per lui, nel club degli autori con la maiuscola, no? Però ha una sicurezza nel mettere in scena e soprattutto una sensibilità di volta in volta rispetto a quello che racconta, che secondo me non si può che apprezzare. Il film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels al cinema da giovedì 5 maggio 2022 con Beam Distribuzione. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Enrico Magrelli. Alla prossima! Alla prossima! Con Claudio Puglisi dello Scrittoio, che insieme a Double Line distribuisce il film Il Naso o la cospirazione degli anticonformisti di Andrei Rejanovski. Al cinema da giovedì 5 maggio 2022, ben trovato Claudio. Ben trovati a voi. Lo raccontiamo brevemente. È un film d'animazione, questo è importantissimo dirlo, animazione per adulti. È un film che racchiude in sé molti e diversi stili, proprio per volontà, quindi non fatto tutto con un'unica tecnica, un unico stile. È ispirato all'opera Il Naso di Gogol, sulle musiche di Shostakovich, che decidette di affidare lui, musicista ormai anziano, sul finire degli anni 60, all'allora giovane regista Andrei Krejanovski, la trasposizione in un lavoro cinematografico accompagnato appunto dalla propria magnifica colonna sonora. È un film che potremmo dire in tre atti, o più propriamente che si dipana su tre sogni sostanzialmente, e che vuole essere principalmente un atto d'accusa verso quanto di aberrante spesso e volentieri il potere può mettere in atto nei confronti della cultura, nei confronti degli artisti, nei confronti degli anticonformisti e di tutti coloro che nel tempo sono stati da un opprimente potere perseguitati e talvolta giustiziati, pensando soprattutto al potere staliniano nell'ex Unione Sovietica, ma senza far mancare un accenno a quello che è il potere ancora oggi della Russia. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? La sua capacità, in molti punti, di non essere pedante, di strappare anche un sorriso, ma di far al contempo pensare. È la cosa che è successa a me, come è successo a me, è successa a molti altri, a cui abbiamo fatto vedere il film, nei periodi in cui, soprattutto in Double Line, stavano valutando la possibilità di acquistarlo e quindi poi di distribuirlo in Italia. Certo è che povero film ha subito causa pandemia, e successivamente, quando ormai finalmente sembrava che tutto fosse addirittura d'arrivo, si fosse dipanato anche una guerra che vede coinvolto il paese d'origine di questo regista e che quindi ha ancora ulteriormente rallentato la possibilità di farlo vedere agli spettatori italiani. Come nella migliore tradizione, musica e disegno sono in un forte connubio. Sì, assolutamente, assolutamente. Il film si appoggia proprio a una magnifica colonna sonora che ne connota proprio l'essenza stessa. Il film verrà distribuito in tutte e due le versioni, sia in versione originale che in versione doppiata. Trattandosi di animazione, noi di solito privilegiamo quanto più possibile le versioni originali. In questo caso, trattandosi di animazione fatta con così tante tecniche, anche la versione doppiata, che quindi non toglie forza a una prova d'attore evidente, riesce a rendere veramente bene quella che è appunto la vera essenza del cinema, e quindi a far godere alle volte di più il lavoro che è stato fatto sulle immagini, senza necessità di dover sempre leggere il sottotitolo, perché in alcuni punti è abbastanza parlato. Molte sale stanno decidendo di darlo in entrambe le versioni, quindi lasciare agli spettatori la scelta di quale preferiscono e quale vogliano vedere. All'estero dove è uscito? A parte appunto un rallentamento anche su altri paesi, però è uscito in diversi paesi europei. So semplicemente che questo film ha girato tanti paesi perché è stato richiesto e selezionato in numerosissimi festival, ha vinto i più importanti festival dell'animazione, da quello di Annecy in Francia, dove ha preso il premio della giuria, così come è stato nominato agli European Film Awards, è stato finalista appunto nella categoria animazione, così come è stato nominato agli Academy Awards negli Stati Uniti a rappresentare il proprio paese, quindi non solamente festival dedicati all'animazione, anche se ha preso premi nei principali festival dell'animazione, ma anche in manifestazioni che non fossero dedicate solo a questa categoria. Che uscita sarà? L'uscita noi originariamente la pensavamo molto più, diciamo, parcellizzata, essendo un film abbastanza di nicchia, per cultori appunto dell'animazione, per un pubblico mediamente colto, in un periodo dell'anno che sicuramente, come stiamo leggendo un po' ovunque, per le sale cinematografiche non si presenta certo come quello più favorevole, mentre invece stiamo vedendo con molto piacere che le principali città italiane stanno rispondendo molto bene, quindi con un'uscita pressoché contemporanea su Roma, Milano, Firenze, Torino, Napoli, Bologna, alcune di queste città anche con più di una sala, quindi siamo molto soddisfatti da questo punto di vista, ma come tutti questi film non sarà e non chiuderemo, diciamo, con la prima settimana del lavoro, ma certamente lo porteremo avanti per tutto il tempo che ci sarà possibile, perché sono film che vedono nella lunga durata il loro percorso. Ci lasci tutti i riferimenti web? Potete trovare tutte le informazioni che volete seguendo i social network di Double Line, social network quindi Facebook e Instagram dello scrittorio, dove puntualmente andiamo a promuovere anche singole proiezioni, quindi ogni aggiornamento si può ricavare da lì. Il film Il Naso, la cospirazione degli anticonformisti di Andrei Rejanovskij, al cinema da giovedì 5 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Puglisi dello scrittorio, che lo distribuisce insieme a Double Line. A presto! Grazie, a presto anche a voi. Grazie e buon lavoro. Con Pier Francesco Aiello di PFA Films per la distribuzione del film L'Audizione di Ina Weiss al cinema da giovedì 5 maggio 2022. Ben trovato! Ciao Federico, che piacere sentirti. Era bene. Un po' che non ci si sentiva. Sì, tutto bene. Parliamo di questo film che è molto interessante. Come lo presenteresti in breve? È la storia di questa insegnante di violino in un liceo musicale a Berlino. Nonostante l'opposizione di altri insegnanti, lei si spinge molto per aiutare un ragazzo, uno studente, per partecipare ad un concorso importante. È un film che, come tanti in questo periodo, ha avuto una vicissitudine un po' così per il fatto del Covid, no? Quindi un po' è stata difficile l'uscita proprio per un fatto di averlo annunciato una volta, poi riuscito e tutto quanto. Comunque la storia è proprio di questa insegnante di violino, del rapporto con la sua famiglia, col marito, con l'amante e con questo ragazzo a cui insegna violino. Quindi inizia il film che sembra un giallo un po', perché c'è tutto un iter particolare, e poi c'è il rapporto anche tra il ragazzo a cui lei insegna e suo figlio, che è un po' più giovane perché ha 4-5 anni di meno, una decina d'anni, che, dato che lei impartisce lezioni a casa, il figlio è un po' c'è questa forma di gelosia, di curiosità, di vedere insomma come la madre insegna, però è tutto dal punto di vista di questa donna, quindi della donna, della famiglia, del figlio, dell'insegnamento. Quindi, a differenza in genere dei film musicali, non è la performance del ragazzo, ma il punto di vista dell'insegnante. L'interprete principale è Nina Hoss, che ormai è una star del cinema tedesco. E lei rappresenta un pochettino quella che l'idea, quella che è stata la regista, perché la regista Ina Weiss è anche un'attrice in tantissimi film, però Ina è anche stata per molti anni al conservatorio, anche lei ha studiato violino, quindi è un film vissuto da parte di questa regista. Sa di cosa parla. Sa di cosa parla, oltretutto è la seconda regia che fa, sta preparando altri due film, quindi è in piena forza del distacco da fare l'attrice, quindi al passaggio proprio di regia, ha preparato questo film con molta precisione. Il film settimane precedente alla nostra uscita è in uscita a Londra, in Austria, anche se è un film che ha un anno e mezzo, purtroppo è uscito in piena pandemia e quindi ha avuto tutte le negatività del prolungamento, no, della vita di questo film, però io so che a Londra ha avuto un'ottima accoglienza, ci ha avuto tantissime interviste e poi in Inghilterra le uscite cinematografiche sono veramente centellinate e oltretutto principalmente sono film di lingua inglese, no, che escono in sala, mentre questo è un film che originariamente è un film tedesco e una piccola parte in francese, e di fatto è una coproduzione tedesco-francese. È un film in cui noi crediamo perché guarda anche il mondo proprio della musica classica e poi è un film molto delicato, ma è un'immagine di una donna di oggi, una donna che insegna, che ha dei corteggiatori, che ha una famiglia, una bella famiglia, che però si intravede anche qualcosa di inquieto perché c'ha un amante e c'ha un problema anche con il figlio. Che tipo di uscita sarà? Secondo me è un momento molto strano, no? Perché a un certo punto ci sono delle settimane che escono quattro film, la settimana scorsa ne sono usciti 16, molti di qualità. Di base noi vorremmo avere, che ne so, 50-60 sale, no, a disposizione, ma poi di fatto tu conosci bene il mercato e sai tutte le difficoltà che ci sono, no, per trovare le sale giuste. Anche questa settimana, che pensavamo insomma che c'erano pochi film, invece in realtà c'è abbastanza assembramento di uscita. E poi tu sai perfettamente che ci sono le polemiche anche in atto adesso, lettere anche, che ne so, da Del Brocco, di Rai Cinema, da Medusa, insomma, che è un appello al ministro, un appello al cinema, insomma, di aiutare proprio la distribuzione, no? Perché in questo momento l'Italia, a differenza anche stranamente degli altri paesi vicini, che sono la Francia, la Spagna, ha un meno 60% di box office rispetto al 2019, insomma. Che, sai, meno 60%, quindi anche noi distributori, anche io come distributore, soffro moltissimo perché chiaramente le uscite sono sempre più rapide, veloci, appena esci poi magari ci sono altri film che mettono, le sale hanno le loro problematiche, insomma, quindi è un momento così. Però noi crediamo nel film, crediamo nel cinema, siamo usciti con La Tana la settimana scorsa, usciamo con L'Audizione, che è un film di estrema qualità. Devo dire che nella presentazione alla stampa che abbiamo fatto ci sono stati degli unanimi consensi di quasi capolavoro. Per saperne di più rispetto alle sale, ci dai riferimenti web? Sul nostro sito pfafilms.com e poi su MyMovie sicuramente ci sarà tutto. Avremo un'idea precisa delle sale che potranno distribuire il film. Il film L'Audizione di Ina Wace al cinema da giovedì 5 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Pierfrancesco Aiello di PFA Films che lo distribuisce. A presto! Grazie Federico, ciao, un saluto a tutti quanti. Grazie, ciao, ciao, ciao. Con Pietro Liberati di Trend Film che distribuisce il film Bad Roads, le strade del Donbass di Natalia Vorobyev al cinema da giovedì 28 aprile 2022, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Come lo raccontiamo? È un film che riunisce quattro storie che sono legate da un filo comune, una presenza femminile che attraversa tutte le quattro storie. Storie popolate da personaggi diversi tra loro, per ambientazione, per trama, per tono anche, sono storie molto diverse, eppure c'è un filo rosso che lega ogni storia a quella successiva. Sono ambientate durante la guerra del Donbass, in un'epoca imprecisata, quindi che si colloca tra il 2014 e il 2017. sono delle storie che hanno a che fare con l'incrociarsi per strada. C'è un preside che viene fermato a un checkpoint della zona antiterrorismo. Ci sono tre ragazze che aspettano un ragazzo a una fermata d'autobus. Quindi la storia più lunga di tutte e più claustrofobica, quella di una giornalista che viene rapita da un militante violento e portata in un vecchio sanatorio in rovina. Storia molto particolare, che sembra provenire da una letteratura antica, da Gogol, è quella di una donna che investe una gallina appartenente a due fattori molto strani, che man mano sono sempre meno indifferenti a questa gallina e cercano di guadagnarci qualcosa da questa morte. All'origine c'è uno spettacolo teatrale. Sì, la regista e sceneggiatrice Natalia Vorobit ha scritto un play commissionato dalla Royal Court Theatre di Londra nel 2017 proprio per raccontare quello che era il punto di vista ucraino sulla guerra del Donbass. Successivamente è stato offerto alla regista di ridurlo per il grande schermo. La regista ha quindi tagliato due dei sei episodi originari e ha realizzato un film che, pur essendo un'opera prima di una regista esordiente e che è praticamente autodidatta, è già un film estremamente maturo sia dal punto di vista tematico che espressivo. All'estero che sorti ha avuto? Innanzitutto la premiere è avvenuta al Festival di Venezia, dove il film è stato mostrato in Settimana della Critica e dove ha vinto il premio del Circolo del Cinema di Verona. Dopodiché il film ha girato in diversi festival nell'area est europea, ma non è uscito in molti paesi. Ultimamente ha riscosso un grande interesse, soprattutto perché la pièce viene recitata oggigiorno in molte città all'aperto, nelle piazze, e anche in molti teatri in giro per l'Europa, per sensibilizzare la popolazione europea su quello che sta succedendo in Ucraina. Cosa ti ha convinto di quest'opera? La prima volta che ho visto questo film è stato a Venezia, appunto nel 2020, e visto all'epoca sembrava una storia dove c'era molta finzione, perché all'epoca si parlava molto poco della guerra del Donbass nel nostro paese. E quello che colpiva era soprattutto la forma di apologo morale, perché attraverso le quattro storie la regista va ad indagare quello che è il confine tra il bene e il male. L'abbiamo riportato anche nei materiali del film, il tema del confine, non solo geografico ma anche quello tra il bene e il male, è il grande asse portante di Bad Road. Che forma distributiva avete scelto? Inizialmente abbiamo operato alcune anteprime che si sono anche trasformate in programmazioni ordinarie di tenitura. Abbiamo incontrato un grande interesse di pubblico nelle primissime città in cui abbiamo mostrato il film, che sono state Bologna e Padova. Abbiamo incontrato il pubblico, abbiamo dibattuto col pubblico e abbiamo trovato una grandissima voglia di confrontarsi sui contenuti del film, che solo apparentemente sono legati all'attualità, ma sono legati anche a uno scandaglio della morale dell'uomo, che si lega anche dalla storia. Questo non vieta al film di essere sicuramente, e anche in maniera esplicita lo afferma la regista, un monito che era stato lanciato già un anno e mezzo fa su come si sarebbe potuta evolvere la situazione che si stava originando in Donbass. Il primo fine settimana vi ha convinto a lanciarlo? Sì, in questo prossimo fine settimana usciremo in molte altre città come Torino, Genova, Firenze, poi continueremo la programmazione in altre città. Stranamente ancora non lo abbiamo mostrato a Roma. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale? Il nostro sito internet è www.trendfilm.it e i nostri social sono per Instagram @trendfilmit e stessa cosa per Facebook @trendfilmit. Il film Bad Roads, le strade del Donbass di Natalia Vorobit al cinema da giovedì 28 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trend Film che lo distribuisce. A presto! A presto, grazie a voi, grazie Federico. con Tommaso Valente, co-regista del documentario The Passengers, al cinema dal 25 febbraio 2022. Ben trovato. Grazie, un saluto anche a te. Ci eravamo sentiti in occasione della campagna di crowdfunding per la realizzazione di questo lavoro e raccontiamo un po' le tappe. Ci siamo sentiti durante la campagna di crowdfunding e devo dire è stato un grande successo anche grazie a tutti quelli che come te, come voi, ci hanno sostenuto, ci hanno dato la possibilità di condividere con una platea sempre più ampia questa casa per le nostre storie. E alla fine questa casa delle nostre storie è stata costruita, ci è voluto del tempo, abbiamo dovuto raccogliere ovviamente le storie e ne è venuto fuori un documentario per il cinema di 1 ora e mezza che sta dando molte soddisfazioni e che racconta le storie di persone che hanno avuto una caduta nella vita, di persone fragili. La cosa bella che però stiamo riscontrando è che il nostro pubblico ci riporta sempre che questo film arriva senza retorica e che di queste persone fragili non arrivano i bisogni quanto invece le capacità, le possibilità, le loro competenze. E questo ci piace molto perché l'idea appunto con The Passenger, con questo viaggio verso casa per chi non ce l'ha, era proprio quello di far ritrovare, riconciliare la società con i protagonisti. Ecco, proprio per ricordare, a proposito della volta che ci siamo sentiti per la campagna di crowdfunding, come era nato il progetto? Già nel 2018 io cercavo di raccontare una storia per raccontare la relazione tra l'individuo e la società dalla parte dei più fragili. Un progetto di abitare sociale come Housing First, che è quello che poi è stato il soggetto insomma principale del nostro film, è esemplare da questo punto di vista. È un progetto dove non si lavora sull'assistenzialismo, ma sull'autonomia, dove non si chiede alle persone prima di fare un percorso e poi di dargli la casa come fosse un premio, no? C'è sempre una graduatoria, uno scalino, un percorso da fare, ma si mette le persone nella condizione di avere subito una casa per poter ripartire. E quindi all'interno di queste dinamiche narrative, insieme a Christian Poli, all'altro regista, abbiamo pensato che poteva spingersi il nostro campo di osservazione. Alla fine ci siamo ritrovati che gli osservati spesso siamo stati noi, perché i nostri protagonisti hanno preso l'iniziativa, come è stato anche per il crowdfunding, e sono entrati e hanno iniziato a raccontarsi con grande autonomia, con grande capacità personale, insomma. Quante storie avete raccolto? Abbiamo raccolto più storie, ma il film è composto da 9 storie, di cui 8 sono di partecipanti al progetto e una in particolare è della coordinatrice del progetto, quindi di una persona che lavora nel sociale, perché poi anche lì il lavoro nel sociale è un'altra questione importante, no? È un lavoro difficile, molto spesso non riconosciuto quanto dovrebbe e dall'altra parte molto delicato per peso, responsabilità e materia che si maneggia. Che ne hai ricavato? Che impressioni ne hai ricevuto? Quando si lavora su tematiche così intense come appunto persone che hanno vissuto un forte disagio abitativo, persone che hanno vissuto problemi di salute mentale o dipendenze, o donne maltrattate, donne sole con bambini e che quindi hanno degli studi drammatici, si scava sempre molto dentro la propria parte più intima, più nascosta, quella che mette più paura, no? Quella che potrebbe essere debole, fragile e quindi si scava nelle proprie paure. E in questo senso devo dire che però c'è stata anche, penso di poter parlare anche per Christian, per l'altro autore, una forte carica dovuta al fatto che noi abbiamo cominciato a raccontare queste persone nel momento della loro rinascita. E quindi è vero che The Passenger è un film drammatico, ma è in realtà soprattutto un film di rinascita e quindi di grande apertura. E poi è un film dove si ride anche, perché devo dire che molti dei nostri personaggi hanno un'autoironia molto forte che nel film viene fuori. Ci racconti anche della forma distributiva che avete scelto? Noi abbiamo scelto una forma distributiva che parte dalla sala in tour con la Emera Film. La Camera Film è produttrice del documentario, la Emera Film è la distribuzione. La Emera Film in particolare ha pensato per questo documentario una forma di distribuzione in tour, cioè non concentrare tutte le proiezioni in un unico periodo, in un'unica settimana, ma fare dei lanci mirati sui territori più sensibili al nostro progetto, partendo dai territori più sensibili al nostro progetto. In questo percorso c'è anche la Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora, che ci sta sostenendo e che attiva di volta in volta una rete di soci, di solito sono cooperative o associazioni sul territorio che si occupano appunto di homelessness e di stabilità abitativa, fragilità, inclusione sociale, eccetera, e attraverso quella rete troviamo anche sul territorio le persone che fanno sì che riusciamo ad essere un piccolo caso rispetto ai film di cassetta, perché abbiamo una media di una cinquantina, una sessantina di spettatori a proiezione, abbiamo avuto anche 300 in alcune proiezioni quando sono venute le scuole, poi, quindi diciamo fuori scala anche dei bei pienoni, e in questo senso il film rappresenta veramente un piccolo successo, perché in questo momento difficile per le sale cinematografiche, il mercoledì o il giovedì, che sono i giorni che sono a nostra disposizione, essendo un film piccolo, spesso i cinema stanno chiusi e invece con noi stanno riuscendo a fare delle aperture interessanti. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Intanto approfitto per dire che il film sarà a Latina il 6 maggio al Multisala Oxer e sarà a Roma l'8 maggio alle 20 al The Space Moderno, un luogo d'eccezione per noi, infatti abbiamo le dita incrociate, e sarà l'11 maggio, mercoledì, al Cinema dei Piccoli, che è un cinema bellissimo, storico della città, insomma un patrimonio dell'umanità, quindi siamo molto emozionati. C'è la nostra pagina Facebook, The Passengers Doc, e poi sul sito di instantdocumentary.it potete trovare una pagina del film con tutte le indicazioni, il trailer. Il documentario The Passengers al cinema dal 25 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento al coregista Tommaso Valente. A presto! A presto, grazie Federico! Con Amir Racco, direttore artistico della 16ª edizione di IFF, Integrazione Film Festival, a Bergamo al Polo Culturale d'Aste e Spalenga e allo Schermo Bianco, dal 10 al 15 maggio 2022. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi oggi. Raccontiamo cos'è questo festival. Passo dal mio punto di vista, ma anche da quello che ho vissuto negli ultimi anni, essendo stato poi uno dei registi selezionati precedentemente in questo festival, è uno spazio che permette di parlare e raccontare storie di vita quotidiana, di scambi, di culture che sembrano altre volte lontane da noi, ma in realtà sono molto vicine, perché le cose che ci accomunano sono molto di più, e dà lo spazio a registi di nazionalità diverse di esprimere e raccontare le loro storie in luoghi lontani. Quindi è uno spazio che dà la possibilità alle persone e a chi, che sia l'osservatore o gli spettatori che guardano, di vedere storie di altre culture, di altre etnie. Quest'anno in due luoghi, Polo Culturale d'Arte Spalenga e allo Schermo Bianco, com'è strutturato? Quest'anno è strutturato che c'è lo Schermo Bianco, bellissimo, uno spazio nuovo in cui ci sarà la possibilità di vedere i film in una sala cinematografica a tutti gli effetti, con qualità incredibile rispetto alla visione dei contenuti che ci saranno, e allo stesso tempo c'è uno spazio che è lo spazio Agora, in cui ci saranno incontri, ci sarà la mostra Origines sui talenti artistici dei ragazzi di seconda generazione e non, e quindi è strutturata in cui ci sarà proprio uno scambio tra i due luoghi, sia dal punto di vista cinematografico e quindi visionando i film, ma allo stesso tempo anche uno scambio fisico di discussioni, di dibattito all'interno della rassegna cinematografica.

Noi cerchiamo di avere la presenza assoluta, visto che sono passati 2 anni ibridi per noi e ci teniamo a che sia una festa tutti insieme qui. Naturalmente però i momenti di incontro più importanti, per esempio con Peter Lord, con Mishima Yuki, con Luca Pigassi, con i nostri ospiti qui in presenza, vorremmo anche darli in diretta contemporaneamente sui nostri social, fermo restando che appunto speriamo che si possa avere un'interazione qui in presenza su Venezia, che poi è una città così bella che naturalmente invita sempre tutti. Quante saranno le opere e poi, visto che è un festival diffuso, come saranno articolate? Il concorso principale comprende sempre 30 cortometraggi, più i 2 concorsi collaterali, quello dedicato ai music video, che sono anche lì circa 8, e un altro più piccolino ma altrettanto prezioso di cortometraggi realizzati da studenti delle scuole superiori di tutto il mondo. E questi film poi andranno ad accompagnarsi naturalmente a tutti i film dei programmi speciali, che sono davvero tantissimi anche quest'anno. Abbiamo scelto questa forma diffusa 2 anni fa e si è rivelata assolutamente vincente, perché Venezia è una città del cinema a tutti gli effetti, no? Per cui abbiamo pensato che portare i nostri film nelle sedi più prestigiose dal punto di vista culturale fosse in realtà un'occasione unica per rendere tutta la città attivamente un grande set e luogo di proiezione di film, quindi musei, fondazioni culturali, altri luoghi che si accompagnano nelle stesse giornate con noi, proponendo i nostri stessi programmi in pratica. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Tutti i dettagli, a cominciare dal programma, dalle forme di prenotazione, le sedi di partner, sono tutti nel nostro sito, che è cafoscarishort.unive.it. Tra l'altro segnalo che c'è anche il nostro bellissimo catalogo, sono circa 260 pagine per intenderci, di lingua italiana e inglese, con tutti gli approfondimenti su tutti gli ospiti che abbiamo con noi quest'anno. 12ª edizione del Cafoscari Short Film Festival a Venezia dal 4 al 7 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Roberta Novielli. A presto! Grazie mille. Con Ilaria Spada dell'associazione Metide, che organizza la 4ª edizione di Altri Sguardi, Cinema e Solidarietà in Carcere. A Roma, carcere di Re Bibbia dal 4 al 31 maggio 2022. Ben trovata. Buongiorno, scusate la mia voce un po' nasale, però grintosa, sì, sicuramente profonda, profonda. Raccontiamola a chi non la conoscesse questa iniziativa. Altri Sguardi perché? Perché vorremmo in questa esperienza, che adesso appunto vi racconto brevemente, provare ad avere uno sguardo reciproco, quindi noi sui detenuti e detenuti su noi, diverso, no? Quindi da parte nostra abbiamo la enorme opportunità di osservare questi ragazzi detenuti nel carcere di Re Bibbia, semplicemente guardarli come esseri umani, ti direi come fratelli, nel senso che noi arriviamo lì e non sappiamo, a meno che non siano loro a volercelo raccontare, il motivo per cui sono dentro al carcere, e sollevandoli un pochino dal giudizio, che è quello che più li inchioda, e dimostrando loro un reale e profondo interesse per ciò che loro hanno da dire, per ciò che loro sentiranno a seguito della visione del film che noi portiamo. Perché fondamentalmente facciamo così: portiamo un film e insieme al film i protagonisti, quindi il regista e gli attori, chiaro che di volta in volta gli è disponibile, e in tutti questi anni ti devo dire che l'enorme piacere è stato vedere che tutti i colleghi che abbiamo rintracciato sono sempre venuti con piacere e sono ritornati chiedendocelo. Perché è un'esperienza, un confronto molto molto bello, molto profondo. Loro hanno l'opportunità di avere un altro sguardo su di noi, in che senso? Nel senso che anche noi, attori, registi, che alle volte sembriamo essere parte di una vita diversa, no? Protagonisti di una vita chissà come, poi in realtà quando ci confrontiamo sul piano umano, quello un po' più profondo, lo strato superficiale, in realtà siamo tutti molto molto simili, alcune ferite sono tutte molto comuni, solo che nel loro caso spesso accade che non hanno avuto un'alternativa, e noi confrontandoci riusciamo veramente a scambiarci emozioni fortissime, fortissime. Quanti sono gli appuntamenti e quanti lavori presentate? Quest'anno presentiamo 4 film, abbiamo chiaramente una lista, ma la stiamo un po' rivedendo perché ahimè il Covid continua a creare qualche problema. Noi siamo già stati felicissimi comunque di non interrompere mai, anche durante il Covid, la rassegna. L'abbiamo fatta da remoto e sono stati, insomma, anche belli nonostante tutto, gli incontri. Però ecco, purtroppo, quindi adesso ti dico, la lista la stiamo un po' ultimando, sempre un po' rispetto alle disponibilità degli attori, purtroppo già 2 persone hanno il Covid, ma insomma sono 4 appuntamenti. Come funziona? Ci saranno le persone detenute ma anche esterni? Noi scegliamo più che altro il carcere di Rebibbia, che ci suggerisce quali tra i detenuti vogliono partecipare e diventare proprio la giuria, quindi c'è una giuria di circa 10 ragazzi. E chiaramente i numeri all'interno del teatro, perché Bibbia è un teatro molto bello, dove peraltro hanno girato un bellissimo film dei italiani e che è usata spesso per gli incontri con i detenuti, in questo caso questo teatro ospiterebbe molti più posti, ma per i motivi di Covid chiaramente il numero è ridotto. Però la giuria lievemente ridotta, ma sono comunque 10 ragazzi, e insieme a loro altri detenuti che di volta in volta, circa un centinaio, possono assistere alla visione del film. Noi siamo chiaramente io e Raffaella Mangini, che insieme a me appunto portiamo avanti Metide. Raffaella non è un'attrice, ma è comunque nel settore della comunicazione, quindi è molto molto anche lei molto forte, molto sul pezzo a sostenere questa iniziativa. E ti devo dire che però ecco, stiamo cercando di includere più persone possibili, ma sempre per motivi di Covid non sarà possibile avere tanti ospiti in più rispetto ai protagonisti diretti del film. Per tutti i dettagli dove si può cercare? Sono una frana con tutto ciò che riguarda i social e mi rimproverano sempre per questo. Io sto cercando di innamorarmi un po' di più di questi mezzi, fatico ancora, ma stiamo costruendo un sito e una pagina Instagram proprio per poter, ecco, mettere un po' soprattutto delle immagini fotografiche degli anni precedenti e di quest'anno, perché testimoniano veramente momenti belli e che andrebbero ricordati e farli conoscere anche agli altri. Quarta edizione di Altri Sguardi, cinema e solidarietà in carcere a Roma, carcere di Rebibbia, dal 4 al 31 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Ilaria Spada dell'associazione Metide. A grazie, presto. Grazie mille, voglio ringraziare a parte Raffaella Mangini, anche Susanna Maurandi che si occupa dell'organizzazione, Ginevra Bandini che è l'ufficio stampa e Laura Dellicolli che è il nostro angelo custode da sempre. Grazie. Con Anna Maria Gallone, direttrice artistica, con Alessandra Speciale della 31esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina. A Milano e online dal 29 aprile all'8 maggio 2022. Ben trovata. Ben trovata, benissimo, eccoci. Eccoci. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse. Il FESCAL è un festival che esiste ben dal 91, infatti quest'anno celebreremo la 31esima edizione. È l'unico festival in Italia che si occupa dei 3 continenti, all'inizio solo Africa, poi ci siamo allargati anche agli altri continenti. Noi scegliamo sempre dei film d'autore che però abbiano anche una vocazione popolare. Abbiamo diverse sezioni, il concorso lungometraggi Finestre sul Mondo, in cui ci sono 10 film, tutti in prima italiana quest'anno, poi il concorso cortometraggi africani, 11 film quest'anno, e questo è un po' il nostro zoom del festival, perché attraverso questi cortometraggi scopriamo i nuovi talenti. Infatti abbiamo avuto il piacere di selezionare i primi film di grandissimi come Idris Ouedraogo, Abderrahmane Sissoko, eccetera, e quindi grande attenzione a questa sezione. Poi abbiamo il concorso extra. Il concorso extra è lo sguardo degli italiani e degli stranieri residenti in Italia sui 3 continenti, cioè su questa realtà del mondo in continuo cambiamento. Poi abbiamo ancora la sezione flash. In questa sezione ci sono film di grandi autori affermati. L'abbiamo un po' separato dalla sezione in concorso dei lungometraggi, perché sono tutti autori ultra conosciuti, oppure film recenti che hanno avuto un grandissimo successo. Per esempio quest'anno abbiamo High Mom di Yan Ling della Cina, è una prima europea ed è il film che in assoluto in Cina ha avuto più entrate, quest'anno delle cifre spaventose, un film che ha fatto piangere perfino i cinesi. Poi abbiamo una sezione, e tutti ridono, dedicata alla commedia. Quest'anno è un autore del Maghreb, Mabrouk El-Mekri, che ci presenta Kung Fu Zora. È un film che all'inizio mi ha lasciato molto perplesso, perché tratta argomenti pesanti, importanti, attuali, come la violenza sulle donne, con un tono assolutamente umoristico. Però poi ho capito che forse attraverso questo tono si riesce a arrivare più vicino agli spettatori e a mandare il messaggio. Esiste poi una sezione fuori concorso, e anche questa sono film importanti che verranno presentati appunto fuori concorso. Uno, perché le autori di questo film, Isole, fanno parte della giuria. Un altro perché fa parte della sezione Edu. Da anni noi teniamo una tavola rotonda in collaborazione con Edu su vari temi dell'Africa. Quest'anno sarà dedicato in particolare all'arte africana, alla modernità dell'arte africana, e ci sarà un bellissimo film System K di Reno Barret. Nel complesso quante sono le opere e poi se saranno presenti anche autori ed autrici a presentarle? Sono 49 film, di cui 26 in prima visione. Tutti i concorsi di cortometraggi sono in prima visione, alcuni in prima europea. Avremo anche registi presenti, donne. Direi che è un festival molto attento alle donne. Infatti, per la prima volta abbiamo tantissime donne registe. Purtroppo, per motivi di budget, non sono tantissimi gli inviti e tre dei registi invitati stanno lottando ancora per avere il visa. Però contiamo che arrivino, che facciano in tempo, perché naturalmente la presenza del regista valorizza il film. Tra l'altro non ho parlato del Niwi, che è uno spin-off del festival. Per il terzo anno è il My World Young Film Festival ed ha un concorso di lungometraggi e cortometraggi dedicati alle scuole. Come sarà strutturato in presenza e online? Questa è la cosa forte di quest'anno, perché dopo due anni di difficoltà, uno in cui abbiamo dovuto cancellare il festival per la pandemia e l'anno seguente farlo soltanto in live, quest'anno ci sarà in presenza e online. Tra l'altro l'anno scorso con My World abbiamo raggiunto un numero di spettatori che non avremmo assolutamente aspettato e che tra l'altro ci seguono da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte. E poi in presenza ci dà una grandissima gioia poter di nuovo incontrare il pubblico, entrare in sala, nel cinema. La cultura finalmente ha un nuovo spazio e tutte le informazioni sono sul sito del festival www.fescal.org. 31esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano e online dal 29 aprile all'8 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica insieme ad Alessandra Speciale, Anna Maria Gallone. A presto! Grazie a voi e vi aspettiamo! Il regista Andrea Scarcella sul suo documentario Roma Illegale, in proiezione insieme alla presentazione del graphic novel Cassa Dritta di Roberto Grossi e il mio libro Quando il fumo si dirada, a seguire cena e selezioni musicali venerdì 6 maggio a partire dalle ore 19 a Roma, nei giardini del Circolo Arci Concetto Marchesi in via del Frantoio 90 a Tiburtino Terzo. Andrea, ben trovato. Ben trovati, ciao Federico, piacere di sentirti di nuovo. Cos'è questo lavoro? Questo è un lavoro ambizioso da un certo punto di vista, ma anche poi naturale nella sua genesi e nella sua realizzazione. Perché? Perché proviene dalla volontà di un gruppo di ravers, che sin da giovani eravamo ravers, che abbiamo deciso sostanzialmente di mettere ordine tra le diverse storie che si raccontano di questo movimento, che è un movimento che ha delle implicazioni politiche e sociali notevoli. L'idea è partita da una serie di interviste fatte a dei personaggi chiave, che poi sono diventate una vera e propria analisi storiografica di un periodo storico ben definito, che è quello dal 90 al 2000 a Roma. E si tratta di questo, di una storicizzazione di quel periodo e di quello che succedeva nell'underground romano di quegli anni. Un grande fermento, inutile dire. Testimonianza neanche una antologia, Detonazione, uscita qualche mese fa, che all'interno ha tra i vari capitoli anche quello dei raid illegali, chiaramente. E certo, l'idea di fare un focus su Roma proviene proprio da questo, quando ho scoperto l'esistenza del progetto Detonazione e soprattutto da una chiacchiera che mi sono fatto con uno degli intervistati, che è Francesco Palmieri, conosciuto come Cighitone World Beer, che durante l'intervista mi ha dato una suggestione fondamentale, cioè la storicizzazione è importante. Dalla storicizzazione possono essere intavolate delle piattaforme future di azione sul territorio. In questo caso sul territorio romano. Il territorio romano è stato un territorio caratterizzato da una forte identità in quegli anni, c'era una forte volontà di viversi questi regni illegali come momenti di protesta e non solo di sballo, quindi con una forte connotazione politica e una forte messa critica di certi punti. Questa storicizzazione, nella mia idea, attraverso questo documentario, servirebbe per rimettere al centro della discussione anche di noi che attraversiamo gli spazi, attraversiamo l'underground, di rimettere al centro un certo tipo di questioni. Attraverso la storicizzazione e la memoria, imparare a viversi meglio la contemporaneità. E poi, è chiaro testimone, quello che sta succedendo, i rave sono di nuovo ritornati mainstream, anzi direi che non erano mai stati così mainstream. Quindi l'argomento è caldo, lo strumento rave è uno strumento vivo, mutevole, che è sempre lì pronto per essere utilizzato al meglio. Il problema è saperlo utilizzare al meglio come strumento. Questo è quello che volevamo spiegare, volevamo in qualche modo cercare di esporre attraverso questo film. Anche perché la carica antagonista negli anni 90 si deve al fatto che all'origine c'erano varie figure della scena comunque occupata autogestita romana. Esatto, esatto. Io ho sottoposto questo film in maniera informale a un tot di persone che si sono prestate nel fornirmi una serie di materiali inediti e sono stati inseriti in questo documentario. E molte di queste persone, tra cui Danilo Monte, che insieme a Zucco nel 2002 dall'esperienza di Indie Media tirarono fuori un film complessissimo per l'epoca che si chiamava Coma K, addirittura lui mi ha detto che attraverso la visione di questo film ha scoperto degli elementi che non erano chiari, che non erano noti né a lui né a tante persone che attraversavano il movimento fuori da Roma in quegli anni. Perché? Perché in quegli anni fuori da Roma c'era forte, forte l'influenza delle Tribe, che arrivarono a metà fine anni 90 e che, a differenza di Roma, nel resto d'Italia trovarono un terreno fertile. Invece a Roma trovarono un'altra cosa, cioè una scena fortemente radicata con cui spesso sono entrati in conflitto, soprattutto nella prima parte. Ovviamente questa conflittualità poi che è espressa in diverse maniere, ma poi è andata scemando nel corso degli anni, perché poi le collaborazioni sono note, insomma, non vogliamo in nessun modo, no, mettere una cesoia noi loro, ma è innegabile che quello che è successo a Roma è un'esperienza totalmente particolare e peculiare che appartiene alla realtà di questo territorio con tutte le sue contraddizioni. E in quegli anni appunto era fondamentale la presenza dei movimenti antagonisti all'interno di questo nuovo esperimento sociale che erano i raid illegali. È innegabile l'importanza della loro presenza, il loro contributo, a partire dai centri sociali, appunto il Breakout, pirateria, lo stesso Forte Prenestino, Spazio Camino, la lista è lunga, insomma. Si muovevano sulla scia delle famose TAZ, zone temporaneamente autonome. Sì, esattamente, il concetto di TAZ che è fondamentale. Poi magari in alcune esperienze questo concetto di TAZ è stato superato, è diventato poi una TAZ di Palermo, permanente, la zona autonoma permanente, da temporanea a permanente. E parecchi in questo passaggio identificano uno snaturarsi del fenomeno, una perdita dei connotati peculiari che aveva all'inizio, una riproducibilità che era definita in un arco spazio-temporale ben definito, nel momento in cui diventa normalità, perde la sua carica rivoluzionaria, ovviamente. Come è strutturato il documentario? Come una cronistoria, quindi ci sono molte interviste ai personaggi di quel periodo, questo fantastico decennio che sono gli anni 90, e c'è tanto tanto materiale di repertorio. Molto del materiale l'ho girato io con le mie prime videocamere nel 2002-2003, ho cominciato già da quel periodo lì ad archiviare materiale che poi mi sono trovato in mini tv e ho inserito nel documentario. Poi ovviamente l'intervento di tante persone che mi hanno sostenuto da questo punto di vista, tutto il progetto Spazio Camino, tutto quello che era l'esperienza di Ostia, nella persona del Secchetto, che se ci ascolta lo ringrazio, che mi ha dato dei contributi fantastici. E in quest'idea di collegamento anche con l'estero vorrei sottolineare anche il supporto di ragazzi inglesi che